Scusi, sono Mastella, contro, però questa frase che vuol dire? Lei è parlamentare europeo sempre del suo partito, però eletto col PDL. Ho spiegato, beh, eletto all'interno del PDL, all'interno col PDL. PDL. Adesso, io ho spiegato. PDL ormai è finito, è finito, morto, no? Mi sembra di capire. No? Una versione sì, cioè perché c'è un grado di depressione. No, una versione del PDL. Ma vogliono è finita. Fare liste dei cani e dei gatti. Pure. No, no, la cosa che sbaglio è questo, che io la mia opinione, devono evitare questa forma di depressione che c'è ed evitare che sia questo antagonismo. Sì, questo antagonismo, i vecchi, i nuovi, ex N, ex Forza Italia, dia qualche consiglio Italia in questo momento di caos. È questo, cioè devono fare stabilire una forma di unità. Poi io ho spiegato ma a qualcuno sono in coma? Sono in coma? No, in coma no, sono tutti in coma. Febbre molto alta, però alta sì. Alta quanto hanno? Devo dire, se tu hai ad esempio che dici bisogna cambiare i nuovi, azzo ho detto, ma il PDL ha fatto il più grande metabolismo politico estetico eppure sta in crisi, cioè non è quello. Cioè, beh, non cioè, fatto tu devi mettere anni fa, però. Se tu metti tutti i mandarini come in Cina, da cui sorrendo, e chi sono i mandarini? No, quelli fanno che sono la vecchia generazione, cioè, tutti i mandarini, tutto è sbagliato. Ma se tu invece metti tutti i giovani, gli anonimi, perché non sai manco chi sono, perché sono giovani. Sì, ma dico, se metti i giovani anonimi, poi dopo la Minetti, tu la scopri dopo che Minetti, ma prima chi è la Minetti? Tu dicevi l'igienista dentale. Sì. Anzi, ce ne stanno 10.000 l'igienista dentale. No, quella è un po' particolare. Molto, no? Molto vicino a Berlusconi. Devo dire, capisco che insomma, un po' diversa dalle altre, sì, per cui non conosco le altre, io non frequento molto i dentisti, quindi come tale, sì, no, per fortuna mia. Però pare che voglia girare un film porno, lo so. No, ma non credo. Sì, pare di sì. Ma vabbè, ma che male ci chiedete sarebbe a lei, fate una telefonata. Ma non ci sarebbe niente di male, secondo me. Lei ha mai visto un film porno? No, ma posso dire una cosa? No, ma lei, le posso dire? No, ma però è una domanda. No, non mi piace. Da giovane, nemmeno da giovane ho visto un film porno. Mai visto un film porno? Rocco Siffredi lo conosce. Ragazzi, vi posso dire una cosa? Io sono arrivato vergine al matrimonio. Ragazzi, voi mi mettete a dire questa cosa qua? No, non ci credo, non ci giuro, giuro. A quanti anni si è sposato? Io mi sono sposato, sì, l'ho detto io, ho 28 anni, quindi. Lei fino a 28 anni? Niente. No, ma non ci credo. Ma io credevo a quelle cose che facevo, ragazzi. Non ci posso credere. Una rivista porno, le ore. Vi voglio non l'ho visto, non il campanile non mi interessa fino a 28 anni. Tu vorresti fare la battuta che io che facevo, no, non facevo quello che pensi tu, no, no, niente, no, manco quello, no, ma quello no, cioè no, no, cioè la famosa M mi ricordo che mia madre quando io andavo, che ero ragazzo in paese, andavo che sono andato a ballare, io ballavo, io ero molto ligio perché frequentavo il mondo cattolico eccetera di gente, quindi allora quando andavo a ballare io ballavo largo. Come allora mia madre, secondo me, siccome aveva soltanto due figli, maschio e femmina, diceva: ma vedete che questo figlio maschio com'è? Magari è un po'. È un po' come esatto. Lo dica lei, com'è? Magari questo figlio maschio è no, io non parlo più di questo, sì, vabbè, no, meglio non rispetto di tutti. Invece in realtà io avevo le mie convinzioni, ero convinto di quello che facevo, bisognava arrivare vergine al matrimonio, esattamente, è una scelta di vita.